A bordo campo di Dario Ricci. Può una matita combattere contro il razzismo nella società e nello sport? Beh, la domanda che cui proviamo a rispondere oggi qui a bordo campo e a Radio 24. Sì, perché parliamo di un libro fresco di stampa e davvero particolare, perché in fondo è un libro, sì, ma è soprattutto un'opera grafica, visto che il fumetto si piega alla volontà del narratore e diventa strumento per raccontare storie di straordinari sportivi che in pista, in campo, in palestra seppero dire no al razzismo e alla discriminazione anche e soprattutto nel mondo dello sport. Parliamo di Pesi Massimi, storie di sport, razzismi, sfide, edito da Sinnos, e nostro ospite, graditissimo ospite oggi a bordo campo, è l'autore di questa pubblicazione, Federico Happel. Benvenuto Federico. Grazie, buongiorno a tutti. Allora Federico, direi che solo a scorrere l'indice della tua opera di Pesi Massimi si capisce un po' dove la tua matita va a parare, perché leggo solo i nomi: Muhammad Ali, Jesse Owens, Gino Bartali, John Carlos, Tommy Smith, Peter Norman, Carlos Caseli, Arthur Ashe, François Pienaar. Bene, è il gota, diciamo, dello sport che seppe dire no alla discriminazione e al razzismo in tutto il Novecento, direi, no? E lasciando traccia, così come la tua matita la lascia sul foglio, questi sportivi lasciarono il loro esempio, la loro traccia nella storia del secolo appena passato. Beh, sono tutti, diciamo, dei grandi classici, nel senso che io, visto che la pubblicazione è rivolta a un pubblico, diciamo, di 12 anni da 12 anni in poi, sono andato a cercare quelli che fossero effettivamente i grandi eroi del tema, appunto, cioè gli sportivi che più di ogni altro avevano lasciato un segno ideologico anche sul loro fare sport, sul loro essere nella società, eccetera, eccetera. E quindi in qualche modo la scelta dei vari personaggi è stata, per così dire, obbligata, nel senso che sono personaggi da cui in qualche modo non si può prescindere quando si affronta un tema del genere. Ed è successo poi che si viene in qualche modo a scoprire che tutti loro sono in qualche modo collegati, mentre ad esempio la storia sia di Jesse Owens che di John Carlos Norman e Smith mi era molto nota. Una cosa che ad esempio io non sapevo in precedenza è che ad esempio alle Olimpiadi del 68, quando i due corridori americani hanno fatto il famoso gesto del pugno guantato alzato in aria, cosa che io non sapevo, negli spogliatoi prima che loro facessero questo i due avevano incontrato Jesse Owens, che era andato negli spogliatoi in qualche modo per pregargli di non fare quest'atto, ed è quindi un collegamento interessante tra personaggi diversi in epoche diverse, e mi è piaciuto in qualche modo anche far vedere come il concetto stesso di lotta al razzismo si sia evoluto molto rapidamente, diciamo così, o doveva far fronte a nuovi problemi in maniera molto rapida e molto il più efficace possibile. Eh sì, sono storie che si intrecciano. Quello stesso Jesse Owens, lo ricordiamo, così come lo ricorda la tua matita, che nel 1936 rovinò, almeno lui, quell'Olimpiade di Berlino che fu il tripudio del nazismo, facendo scappare quasi Hitler dalla tribuna, perché con le sue vittorie l'ariano Hitler certo non avrebbe avuto piacere di premiare il nero Owens, no? E quindi il buon Jesse, a forza di vincere, spinse il dittatore fuori dalla tribuna. In parte con le sue vittorie, ma anche e soprattutto con la sua socialità, nel senso che durante quelle stesse Olimpiadi, mentre appunto il record di velocità rientrava in qualche modo in quello che ci si poteva aspettare da un'Olimpiade, quello che Jesse e un saltatore tedesco, Lutz Long, fecero insieme è stato molto più forte, cioè questi due che erano diversi in tutto, uno nero l'altro bianco, un americano l'altro tedesco, uno nazista perché il saltatore era tesserato per il Partito Nazionalsocialista, questi due ragazzi strinsero amicizia lì nel campo davanti a tutti, e questo gesto, un gesto di una banalità incredibile, diciamo così, ebbe una forza e una risonanza notevole per quello che poteva avere, insomma, un gesto del genere. Costò molto a Long, perché poi venne spedito al fronte, se non sbaglio proprio sul fronte italiano, dove trovò la morte, vero? Dovrebbe essere sepolto ancora in Sicilia, dove appunto morì durante l'avanzata degli alleati, sostanzialmente. Eh sì, fatto tra l'altro inconsueto per gli atleti, no? Che spesso sotto le armi in molti casi riuscivano a godere di trattamenti di privilegio. Evidentemente quell'abbraccio, quel riconoscimento del valore di Owens nel pieno spirito olimpico davvero ha fatto storcere il naso a più di un gerarca nazista. Si dice ad esempio che durante la stessa Olimpiade Rudolf Hess avesse fatto, diciamo, una ramanzina, per usare un eufemismo, allo stesso Long, abbastanza dura, insomma. Dicevamo gota di questi esempi, no? Di campioni che hanno saputo quasi creare una cerniera nei punti di frattura della nostra coscienza, no? Superando barriere, ostacoli, contraddizioni, scontri. Perdona, mi viene in mente la storia di Carlos Caselli, calciatore cileno, vero? Vuoi ricordarcela? Perché forse in questo pantheon è quella meno nota. Esatto, è quella meno nota, dove in qualche modo è meno nota anche perché a me serviva in un libro del genere una figura che fosse il più possibile senza macchie e senza paura, diciamo così. E mentre nel calcio ci sono altri esempi di calciatori che hanno fatto qualcosa, spesso questi esempi si vanno a confrontare con contraddizioni che erano problematiche da gestire in un libro del genere. Carlos Caselli è stato un grande attaccante del Colo-Colo, cioè la squadra di Santiago del Cile, e della nazionale cilena. Non ha mai vinto niente di particolarmente importante, se non in Sud America. Ha giocato qualche tempo anche in Spagna, nel Levante e nel Valladolid, se non sbaglio. Ma Caselli è importante, è ricordato soprattutto nelle cronache, per un famoso rigore sbagliato durante i mondiali di calcio del 1982 in Spagna contro l'Austria, rigore che sostanzialmente determinò l'eliminazione del Cile. Perché è importante questo rigore? Perché Caselli, e come lui anche altri calciatori della nazionale cilena, che ricordiamo dal 73 era sotto una durissima dittatura militare, cioè quella di Pinochet, Caselli insieme ad altri giocatori non aveva mai nascosto, diciamo, la propria fede socialista o la propria opposizione al governo di Pinochet. Questo rigore sbagliato nell'82 venne incredibilmente, in maniera molto bizzarra, letto dal regime militare come un atto di protesta. E Caselli non ha mai né confermato né smentito questa cosa, ovvero che i generali e Pinochet in testa lo accusavano di aver sbagliato apposta il rigore pur di disonorare il paese governato da Pinochet. È una teoria abbastanza ridicola, diciamo così. Ma quanto ci piacerebbe che fosse quella vera, eh? Esatto, cioè sarebbe da una parte appunto, ed è poi la contraddizione di tutto ciò, Pinochet dava con queste accuse risibili sostanzialmente, dava allo sport, al calcio, a un rigore sbagliato, dava un potere che in realtà non sappiamo se veramente ha. Probabilmente sì, perché le dittature, ma anche in generale la politica, presta un'attenzione che altrimenti sarebbe morbosa ai fatti dello sport. Tu con la tua matita lo racconti bene, e forse anche, devo dire, frutto di questa influenza malsana è proprio il fatto che ci si trovi a ragionare proprio sul senso ultimo di un rigore, no? Così come noi e i posteri di Caselli stanno facendo ormai da qualche decennio. Caro Federico, che c'è anche un tratto grafico che è del tutto particolare, no? Che utilizzi nel raccontare queste storie. Vedo sfogliando il libro, ad esempio la bonomia del volto di Gino Bartali, oppure la cattiveria che metti ma anche l'ironia che metti nella rappresentazione invece del volto di Adolf Hitler. Ecco, qual è la linea che guida la tua matita? Allora, in questo caso io ho già scritto dei libri per ragazzi, ho pubblicato altri libri per ragazzi e questo era il primo fumetto nel quale mi misuravo completamente, diciamo così, come autore, come disegnatore, come fumettista, una cosa abbastanza inedita per me. Dall'altro lato sono andato a raccontare delle storie che appunto sono in qualche modo delle storie assolutamente esemplari, cioè delle storie che hanno un loro messaggio, una loro idealità dietro, ma ovviamente come tutte le storie esemplari, queste storie corrono vagamente lungo il rischio della retorica, diciamo così. E allora la mia matita, in qualche modo l'ironia che cerco di nascondere in qualche vignetta, serve proprio a dire: guardate, stiamo attenti, nel senso che io vi sto raccontando queste storie esemplari, vi sto raccontando storie di coraggio, storie commoventi, eccetera, eccetera, ma continuiamo ad avere la mente sveglia, nel senso che quello che il razzismo chiede in qualche modo è proprio quello di credere a determinate cose che non meritano di essere credute. Allora io con la mia matita che cosa faccio? Dico sostanzialmente: stiamo svegli, cioè vediamo come dietro ogni storia ci sono rovesci della medaglia. Faccio un esempio, la famosa storia di Jesse Owens, dove appunto la vulgata vuole che il nemico di Jesse Owens sia sostanzialmente Hitler, e ovviamente è così, ha anche un risvolto della medaglia, e cioè che la parte peggiore del razzismo subito da Owens e compagni, ad esempio, non era in Germania ma era negli Stati Uniti. Il democraticissimo Franklin Delano Roosevelt, il buono, diciamo così, nella storia della Seconda Guerra Mondiale, non ha mai potuto ricevere gli atleti vincitori di medaglia a Berlino 36, proprio perché soprattutto quelli neri. Esatto, proprio perché vigeva in qualche modo un razzismo che, diciamo, per noi o per la nostra percezione della storia è inaspettato. Cioè razzismo... Basti anche pensare, Federico, alle scelte di chiara matrice razzista che vennero fatte nei confronti degli ebrei, di quella spedizione, di quella squadra americana, proprio quasi a voler essere più realisti del re, in omaggio del nazismo imperante, e che era il padre, appunto, lo sponsor principale di quelle Olimpiadi. Esatto, lo stesso presidente del CIO, Brundage, diciamo, che poi sarà tristemente noto ed è un personaggio ricorrente appunto nella storia delle Olimpiadi, perché era presidente del CIO dirigente del CIO nel 1936, è stato presidente del CIO nel 1968 e poi ancora nel 1972 alle terribili Olimpiadi di Monaco. Era appunto un dirigente statunitense, ma con abbastanza esplicite simpatie destrorse, diciamo così. Sì, quello veramente meriterà un'altra puntata di A Bordo Campo, la storia di Avery Brundage, del resto tra l'altro nota agli esperti. Direi che il simbolo, no, di questo tuo campanello d'allarme che ci fai suonare nelle orecchie attraverso la tua matita è anche il fatto che molto spesso anche i volti degli atleti neri vengono rappresentati in chiaroscuro, no? Sono bianchi e neri, come a ricordarci che forse il razzismo è una mentalità e che quindi anche il più antirazzista può diventarlo se non mantiene sempre le antenne dritte e la coscienza critica sveglia, no? Beh sì, è esattamente questo, dove ovviamente il mezzo grafico, essendo in bianco e nero, in qualche modo aiuta o esaspera determinate cose, ma un esempio che mi viene da fare interessante in questo caso è Muhammad Ali, Cassius Clay, che in questo mio libro in qualche modo è una sorta di Virgilio, diciamo così, che guida il protagonista, che è un ragazzino, alla scoperta di queste storie. Ebbene, Muhammad Ali, che è un campione assoluto, diciamo, di antirazzismo, di idealità nello sport, uno che ha subito sulla propria pelle la squalifica, il rifiuto di andare in Vietnam, una serie di cose, Muhammad Ali, ad esempio, ha vissuto alcune contraddizioni sull'essere antirazzista interessanti. Esistono, ad esempio, sue interviste alla BBC, se non sbaglio, dove prova a sostenere, diciamo, arrampicandosi sugli specchi oltre ogni limite, il fatto che appunto neri e bianchi non si devono mischiare, diciamo, nei loro rapporti sentimentali o cose del genere, che è in qualche modo una strana involuzione del discorso, insomma, e lo stesso Muhammad Ali in qualche modo ha avuto modo di riragionare su queste sue parole avventate. Insomma, beh, provate voi a definirlo solo un libro per ragazzi, questo Pesi Massimi di Federico Appel. Io vi consiglio di sfogliarlo e vedrete che c'è tanto, tanto da imparare e da godere anche nella veste grafica del tutto particolare che Federico ha scelto per raccontare queste storie di Pesi Massimi, storie di sport, razzismi e sfide, edito da Sinnos. Allora, in bocca al lupo per questa e tutte le pubblicazioni che verranno, e grazie a Federico Appel per essere stato oggi nostro ospite qui a Bordo Campo. Grazie a voi per l'attenzione. A Bordo Campo. Non si può certo dire, converrete amici di A Bordo Campo, che il tema del razzismo nello sport non sia entrato con un tackle deciso nell'ambito dell'estate sportiva italiana, e ci siamo capiti, basta far riferimento al caso Tavecchio e ai suoi sviluppi, ma di fatto quella è stata esclusivamente la punta di un iceberg, perché di fatto il mondo dello sport italiano sta cambiando ormai da diversi anni. Nuovi italiani di seconda generazione arrivano in Italia e soprattutto nel nostro sport, lo arricchiscono di culture e anche di talenti diversi che dobbiamo essere pronti, parere personale e non è certo originale, però, ad accogliere, perché questa è la strada maestra sia dell'Italia che sta nascendo sia anche per poter essere competitivi dal punto di vista sportivo. Beh, c'è tutto questo, ma anche, vi assicuro, molto molto di più nel libro che ho tra le mani, Campioni d'Italia, le seconde generazioni e lo sport, edito da Sinnos, ed è il libro che vi suggerisco per un'estate di approfondimento su questo tema, di cui parliamo oggi con Mohamed Abdallah Tailmoun, uno degli autori che è nostro ospite a Bordo Campo. Benvenuto Mohamed. Grazie. Classe 73, nato a Tripoli, Mohamed Abdallah Tailmoun è cresciuto però a Roma, dove nel 2005 è tra i fondatori della rete G2 Seconde Generazioni, animatore del blog secondegenerazioni.it, ricercatore sociale e mediatore culturale, si occupa appunto di ricerca e azione nel campo delle seconde generazioni italiane. Beh, Mohamed, direi oltre che parecchio da scrivere, anche parecchio da lavorare, perché questo concetto di seconda generazione a noi italiani è un po' indigesto, Sì, soprattutto diciamo dal punto di vista della questione dei diritti, della discriminazione, dal punto di vista anche dell'informazione, perché molte volte noi seconde generazioni veniamo tranquillamente confusi con la questione dell'immigrazione tout court, quindi dell'accoglienza, degli sbarchi, eccetera, mentre invece, come capita spesso, come cerchiamo di raccontare anche in questo libro, è una questione che riguarda soprattutto una grossa componente dei giovani o non più giovani italiani, quindi nati qua o cresciuti qua da genitori stranieri, insomma. Sì, sintetizzando, la storia del Balotelli non è italiano, no? Sì. sintesi brutale, perdonami. Balotelli racconta, dice molto, insomma, di come vengono trattate le seconde generazioni italiane in Italia. Eh sì, insomma, sintesi brutale, la mia, perdonami, ma è questo lo slogan con cui chi non vede queste seconde generazioni o fa finta di non vederle si fa largo nell'ampia platea dei luoghi comuni. Vengano, signori, si accomodino. Beh, allora, direi che campioni d'Italia, le seconde generazioni dello sport, prova sia a dare delle risposte ma anche a porre nuovi quesiti in quest'ottica. Insieme a Mohamed, gli autori sono Isaac Tesfaye e Mauro Valeri. Beh, lo conosciamo bene, il professor Valeri, direttore dell'Osservatorio Nazionale sul razzismo. Ecco, Mohamed, quali sono le linee guida di questo testo? Perché vedo che voi, ho letto che voi fate un percorso sia storico nell'ambito dello sport italiano, di come si afferma il concetto, di come si affermano anche i campioni delle seconde generazioni italiane, sia anche e soprattutto, direi, un importante quadro normativo per capire in quale contesto si vanno a inserire questi talenti che progressivamente, anno dopo anno, bussano alla porta dello sport italiano. E ahimè e ai noi come appassionati, direi anche, la risposta non è sempre positiva. Sì, in questo testo noi, diciamo, seguiamo due concetti, due questioni fondamentali, tocchiamo due questioni fondamentali. Una, quella che tratto io nel primo capitolo, che riguarda più in generale la questione delle seconde generazioni e la legge per la concessione della cittadinanza, la 91-92, che, diciamo, è il macigno legislativo che si frappone fra noi seconde generazioni e il paese che sentiamo nostro, che è l'Italia, insomma, il nostro paese, perché è una legge, insomma, come racconto nel libro, che si basa, la legge per la concessione della cittadinanza italiana, su un principio che ormai dovrebbe essere superato, che è il principio dello ius sanguinis, del diritto di sangue, mentre invece noi seconde generazioni chiediamo il riconoscimento del principio dello ius soli. Questa è una battaglia che, per esempio, porta avanti la rete G2 seconde generazioni da quando è nata, dal 2005. Infatti, fra poco ci arriviamo, no? A questo concetto, perché anzi, arriviamoci subito, perché alcune federazioni sportive, le più avvertite, hanno fatto un passo in avanti in questa direzione, no? Concedendo già di fatto lo ius soli a quegli atleti che nati in Italia, magari da genitori appunto stranieri, ma pienamente italiani sono, e quindi devono essere inseriti negli organici dei vari team, dei vari club, come tali. Certo, e questo infatti è il secondo punto, il secondo tema del libro, che è quello che tratta maggiormente Mauro Valeri nel suo capitolo, che riguarda il rapporto fra le seconde generazioni, la questione delle seconde generazioni e, diciamo, il governo dello sport italiano. Per cui si fanno esempi di alcune federazioni, alcuni sport molto più avanti, come il rugby, il cricket, eccetera, che prevedono, cioè non si fanno, come dire, bloccare, non si fanno limitare dalla legislazione italiana sulla cittadinanza, ma anzi rilanciano proponendo negli organici delle varie nazionali, eccetera, la possibilità di accesso a giocatori, insomma, sportivi stranieri tra virgolette, italiani, diciamo, con il permesso di soggiorno. Questo anche un po' per portare avanti, per incentivare il movimento sportivo, no? Certo, anche perché non è che c'è solo uno spirito filantropico, molti presidenti di federazione si sono resi conto che considerando, come giusto che sia, italiani a tutti gli effetti, questi talenti che italiani del resto sono, si ottiene anche un innalzamento del livello di competitività in contesti in cui le altre nazioni già lo fanno in modo molto più chiaro, più libero, più aperto, più incisivo, e quindi ci si trova a confrontarsi con realtà che già possono avvalersi di questa iniezione di talento non da poco. Beh, sarebbe il caso di farlo anche noi, soprattutto in ottica di olimpica, direi. Assolutamente, assolutamente sì, ma l'Italia ha un grosso problema di fondo, che uno è la questione della legge sulla cittadinanza, che è basata sullo ius sanguinis, no? Quindi sul fatto che si eredita la cittadinanza dai propri genitori, insomma, quindi uno è cittadino italiano se ha un genitore o un parente, insomma, anche molto lontano italiano. E il fatto che in Italia, e questo è legato al fatto che in Italia soprattutto, diciamo, rendere italiano chi non aveva la cittadinanza italiana è sempre stato più che altro una questione che riguardava l'oriundo, sì. Le famose nazionali, campioni d'Italia, Altafini, del mondo, Sivori, no? Insomma, Altafini, Sivori, solo per ricordare quella ondata, ma anche ad esempio Camoranesi. No, diciamo, per cui diciamo, lo sport, il governo dello sport italiano ha sempre utilizzato, diciamo, la questione del concedere il passaporto italiano a sportivi che non lo avevano, soprattutto una questione, diciamo, utilitaristica, finalizzata al costruire delle nazionali, diciamo, vincenti, no, a livello internazionale. Mentre invece altri paesi, questo non si può più fare, diciamo, perché sono cambiate anche le regole dello sport a livello internazionale, insomma la FIFA eccetera non concedono più queste cose in modo automatico, e altre nazionali come ad esempio la Germania, che ha vinto il campionato del mondo quest'anno, ma altre ancora guardano molto di più alla questione dei vivai, che in Italia invece è una questione, diciamo, tabù. Nel senso che in Italia i vivai nazionali sono solo esclusivamente, quando se ne parla, sono solo esclusivamente una questione dei giovani sportivi con passaporto italiano. Certo, quindi quando invece si parla in altri paesi non è più così da parecchio tempo. La cosa particolare è che quando noi parliamo del vivaio italiano, immaginiamo il nostro ragazzetto romano, milanese, genovese, catanese, così come oggi già non esiste più. Basta entrare in una classe scolastica per capire che le cose sono un po' cambiate. È vero, perfetto, così. Nessuno pensa che in realtà i vivai nazionali e giovanili italiani dovrebbero, uno dovrebbe più pensare ai fratellini di Balotelli, piuttosto che immaginarsi, no, giocatori o sportivi, insomma, italiani discendenti da genitori italiani. Sì, italiani come eravamo una volta, insomma, diciamo che come non lo siamo più, ma sulla spinta del cambiamento della società, perché poi in fondo lo sport questo registra e fotografa i cambiamenti del nostro vivere comune, del nostro vivere in società. Direi che c'è anche un'ampia parte, Mohamed, del vostro libro, è quello curata più direttamente da Isaac Tesfaye, dedicata proprio alla storia di tutta questa casistica di secondi campioni o atleti di seconda generazione, e non solo in Italia, no? Sì, è vero. L'ultimo capitolo, che è quello curato più da Isaac Tesfaye, racconta, insomma, i casi, le storie, insomma, di 100 sportivi italiani a tutti gli effetti, che però hanno avuto problemi in moltissimi casi perché non avevano la cittadinanza italiana al momento giusto. Per colpa di questa legge, insomma, di cui parlavo prima, insomma, della 91-92, in alcuni casi sono riusciti, diciamo, a superare difficoltà perché i regolamenti delle federazioni del sport che praticavano lo permettevano ed erano inclusivi, mentre invece in moltissimi casi, soprattutto i calciatori purtroppo, hanno avuto problemi di accesso, quindi delle situazioni anche di discriminazione di fatto, che gli hanno impedito di farsi valere come sportivi italiani. Certo, c'è ad esempio la nazionale azzurra maschile di pallavolo che tra Travis, Zlatanov, Zaitsev, Kovar, insomma, basta pronunciarli questi nomi e ci fa capire come questo sì che è stato un regolamento quanto mai inclusivo, per fortuna per i risultati che stanno ottenendo sul campo, ma anche e soprattutto per un segnale di civiltà che spero personalmente che si espanda presto a tutto lo sport italiano e non solo, no Mohamed? Certo, perché comunque diciamo l'orientamento generale delle varie anche federazioni, io penso soprattutto al calcio perché di calcio si parla ultimamente spesso in relazione a questo argomento, l'orientamento è quello di rendere il più inclusivo possibile la possibilità di accesso alla pratica sportiva, quindi al contributo al movimento sportivo nazionale di ogni singolo paese da parte dei figli di immigrati. Diciamo il paese che a noi ci dispiace però da questo punto di vista insomma è particolarmente messo peggio è l'Italia, perché in Italia queste robe qua, questi discorsi qua sono ancora insomma legati ecco alle battute, alle barzellette, mentre invece in altri paesi sono considerate questioni serie, questioni che riguardano la classe che dirige, la classe dirigente che dirige insomma lo sport, l'accesso allo sport nei vari paesi. E ci dispiace insomma che l'Italia questo dibattito è arrivato molto ma molto poco. Beh, allora, speriamo che anche libri come questo contribuiscano a cambiare questa direzione. I segnali sono avversi, Mohamed, permettimi di dirlo, ma la speranza del resto è un sentimento che esiste malgrado tutto e malgrado proprio queste direzioni. Beh, parecchia speranza troviamo in Campioni d'Italia, le seconde generazioni dello sport di Mohamed dalla Talmoon, Mauro Valeri e Isaac Tesfaye. Mohamed, ringraziandoti per essere stato ospite di A Bordo Campo, allora chiudiamo anche con un messaggio di speranza. Ce la faremo come italiani a applaudire i trionfi dei nostri campioni di seconda generazione? Ce la faremo sicuramente. Non so se ai prossimi insomma eventi sportivi internazionali, però sicuramente ce la faremo perché è in gioco, diciamo, ne va il futuro dell'Italia. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, anche in podcast, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. A Bordo Campo torna come sempre domenica prossima alle 16:30 e in replica il sabato mattina alle 6:15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.